ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Si chiama D614G, la nuova variante del SARS-CoV-2 che si sta diffondendo, e quanto suggerisce uno studio non ancora sottoposto a revisione dei ricercatori dell'ospedale di Houston, che commentiamo insieme al professor Fabrizio Pregliasco, virologo all'Università di Milano. Professore, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno. Ma si tratta di una cosa naturale, i virus cercano di modificarsi per adattarsi meglio all'ospite, e questo coronavirus l'ha fatto molto bene, perché questa variante diventa, sembrerebbe, più contagiosa della versione iniziale, però più benevola, e questo fa gioco al virus perché gli facilita la vita nell'ambito della diffusione, e noi lo stiamo vedendo giusto appunto con quella gran quota di asintomatici che ora individuiamo. Cosa buona per certi versi, perché in questo momento più positivi individuiamo, più li controlliamo, meno contagiano. Professor Pregliasco, calano le temperature, aumentano i casi di raffreddore, bruciore alla gola, le prime forme parainfluenzali. Che fare? Come riconoscere i sintomi di una banale influenza da quelli del Covid? Non è facile, e purtroppo, come sempre, la stagione influenzale, l'abbiamo sempre detto anche insieme, è una costante come le tasse. Forme di vera influenza più pesanti, con febbre, sintomi generali, o forme più banali con naso chiuso, naso che cola. Ecco, se si tratta di una sintomatologia singola, con senza febbre, naso chiuso, naso che cola, è quasi certamente una delle tante forme che ci capiteranno. Speriamo non in una stagione pesante, perché come hanno visto in Australia, tutto ciò che stiamo facendo per il coronavirus aiuta anche a ridurre le forme influenzali, le forme simili influenzali. Però non sarà facile, ci vuole buon senso e attenzione, e seguire le indicazioni del medico o del pediatra, e poi vacciniamoci, come sempre, come ogni anno, quest'anno ancora è più opportuno degli altri anni. Grazie professor Pregliasco per essere stato con noi, buona giornata. Ciao a tutti. Bene, per oggi è tutto, come ogni giorno vi rimando alla pagina Facebook di Obiettivo Salute per le nostre video interviste. Oggi parliamo della salute della pelle. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, è completa e conveniente, da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.